Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. È in corso, come da tradizione a Rimini, la convocazione nazionale del rinnovamento nello spirito, il movimento che quest'anno festeggia 40 anni di vita. Ve lo presentiamo allora insieme al presidente nazionale Salvatore Martinez. Cadono i 40 anni della nascita del movimento in Italia, era il 1971 e si affacciava all'Università Pontificia Gregoriana. Dobbiamo ai gesuiti il nostro inizio qui in Italia. Negli Stati Uniti era il 1967, si era appena chiuso il concilio e si auspicava un rinnovamento liturgico, biblico, ecumenico, tutti rinnovamenti promossi però dall'alto, dalla gerarchia, ma lo spirito sorprendeva tutti e dal basso, come espressione di un nuovo risveglio di fede popolare, faceva nascere il rinnovamento carismatico o il rinnovamento nello spirito, come lo denominiamo qui in Italia, un movimento che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, oggi in più di 200 paesi, oltre 80 milioni di aderenti, in Italia sono oltre 200.000 divisi in 1.900 gruppi e comunità. Se dovesse sintetizzare le caratteristiche del vostro movimento, quali parole utilizzerebbe? Userei le espressioni di Giovanni Paolo II, 10 anni fa, in occasione del nostro 30° anniversario, ebbe a dire: il rinnovamento è uno speciale dono dello spirito alla Chiesa dei nostri tempi, perché nato nella Chiesa e per la Chiesa propone l'esperienza dell'incontro vivo con Gesù, una riscoperta della bellezza della preghiera personale e comunitaria, una nuova fiducia nella parola di Dio, una riscoperta vitale dei sacramenti e dei carismi e poi un'esperienza viva di fraternità che dà coraggio alla gente nelle prove e speranza nel tempo della tribolazione. Si può dire che in un momento come questo, molto difficile per certi versi per la Chiesa, dove da più parti si chiede appunto una sorta di rinnovamento, comunque di ritorno proprio a una forte spiritualità, è quanto mai attuale il vostro messaggio? E direi proprio di sì, Benedetto XVI non si stanca di ripetere che la crisi è spirituale, la madre di tutte le crisi è spirituale. Certo, vediamo crisi economica, politica, la crisi della famiglia, la crisi dello stesso statuto umano, ma a ben vedere è il cuore dell'uomo che è in crisi. Già il Vaticano II con il cardinale Siunens diceva: certo, mettiamo mano a tante riforme strutturali della Chiesa, ma guai a dimenticare che il cuore ha bisogno di essere rinnovato. Ecco perché riteniamo che questo 40° si consumi tra la memoria grata del nostro passato, ma anche la profezia di un cammino nuovo, in modo speciale in questo anno della fede e della nuova evangelizzazione. Ecco, tra gli appuntamenti che presenterete c'è questo evento 10 piazze per 10 comandamenti. Una riproposizione di questi 10 comandamenti, in fondo sono il fondamento morale di tutte le legislazioni, delle costituzioni democratiche vigenti. Vogliamo ridire con un linguaggio nuovo e direi anche attrattivo l'amore di Dio per l'uomo. Non sono dei divieti, sono delle proposte di vita nuova, ed evidenziare quanto oggi sia fondamentale per il bene comune e per l'espressione di una cittadinanza attiva ripartire dai 10 comandamenti. Lo faremo nelle principali piazze delle città metropolitane con gli arcivescovi e i cardinali di quelle città. A ciascuna città sarà affidato un comandamento e simultaneamente a settembre, in 2 date, avremo modo così di rappresentare vitalmente quanto sia fondamentale ripartire dall'amore verso Dio, verso gli uomini e verso se stessi, perché in fondo Gesù ci dice che in questo comandamento tridimensionale dell'amore possono riassumersi 10 comandamenti. Ora c'è Don Willy Volonté. La riflessione sociale cristiana deve pur dare un'indicazione per uscire da questa crisi economica che uccide le persone. Far finta che siamo fuori dal pantano è segno di scarso realismo e di mancanza di ragionamento. Se c'è una realtà a cui guardare, quasi un punto di Archimede su cui far leva per ripartire, la famiglia. La famiglia è un vero ammortizzatore sociale, la quale, nel caos anche psicologico a seguito della precarietà sociale, può rappresentare un punto di forza, un ritornare alla casa degli affetti veri e stabili, una risorsa che sprigiona energie per decisioni positive per chi ci vuol bene, che non fa pagare la solidarietà umana che ci offre. La famiglia severa apre un orizzonte di sicurezza che permette di non subire l'aggressività della crisi. Per questo la famiglia, con il suo intreccio di relazioni umanamente significative, deve essere il microcosmo da salvare e privilegiare ad ogni costo. Quando l'uomo è rappacificato con la vita e con gli affetti, scopre in sé risorse insospettate per affrontare qualsiasi pericolo. Ma mi chiedo, la famiglia è veramente sentita e custodita come il bene più prezioso della società, oppure la collochiamo sullo stesso piano di altre convivenze in cui emozioni e sentimenti pur buoni sono comunque incapaci di assumere il dovere della generazione dei figli, della sfida educativa e della stabilità di rapporti. Solo la famiglia, così come la natura e la tradizione, ce l'hanno consegnata e degna di essere custodita ed aiutata in tutti i suoi aspetti, perché ha doveri che altre forme di convivenza normalmente non si assumono. Quindi dalla crisi economica, ma soprattutto umana, si esce guardando la famiglia.